One, two, three, four, go dance! Ho 100 apparecchi vestiti in quantità, ho 4 telefoni e una giacca di taffa, occhiali ne ho uno stop, li perdo qua e là, ho 100 braccialetti ed un'infinità di omini di plastica, eroi senza età. La mia camera sembra la reggia di uno sciacquo, mi sento un po' strano, c'è qualcosa di arcano. Dovrò chiamare il mio analista o forse l'esorcista. All'improvviso è tutto chiaro, abbagliante come un faro. Mi han fatto allo spiedo, son posseduto da ciò che possiedo. Son posseduto da ciò che possiedo. Son posseduto da ciò che possiedo. Go dance once again! Ho molte figurine di ogni varietà, compro spade laser con grande voluttà, 3-4 proiettori e schermi stile Alibaba. Ho una propensione per certe enormità, le compro e le ricompro in velocità. Diventa tutto vecchio nel tempo di uno pla. Mi sento un po' strano, c'è qualcosa di arcano. Dovrò chiamare il mio analista o forse l'esorcista. All'improvviso è tutto chiaro, abbagliante come un faro. Mi han fatto allo spiedo, son posseduto da ciò che possiedo. Son posseduto da ciò che possiedo. Son posseduto da ciò che possiedo. Non so più fare niente, divento impotente. Mi son riempito di cose, sono in overdose. Pensavo d'esser fico, ma sono il mio nemico. Loro sono vivi, io faccio d'arredo a ciò che possiedo. Son posseduto da ciò che possiedo. Son posseduto da ciò che possiedo. Go dance for the last time! You're shaking!